So, we take a question by question, yeah? Quindi ce ne sono tantissime. 4, 5. Cominciamo dall'ultima. Start from the first. So I'll just Maybe give, some are repeated. yes, I'll give indications. Darà We'll delle see. indicazioni rapide. Non ho capito bene il concetto di etica, è la prima. I haven't understood the concept of ethics, the idea of ethics. In the Buddha's teaching, our fundamental mistake is one of relationship. Secondo gli insegnamenti del Buddha, il nostro errore fondamentale è un errore di relazione. We believe ourselves to be this person. Che noi crediamo di essere questa persona. And this creates a relationship to other people, to the world, to everything. E questo fa sì che si creino delle relazioni con gli altri, con il mondo, con tutto quanto. So the whole teaching really is about correcting that relationship. Quindi tutti gli insegnamenti effettivamente riguardano come correggere quel tipo di relazione. Away from greed and selfishness towards generosity. E quindi toglierlo, allontanarlo dalla brama, dall'egoismo, per portarlo più verso la generosità, Away from hatred and anger towards love. allontanarlo dall'odio, dalla rabbia, per portarlo verso l'amore. Away from cruelty towards compassion. Allontanarlo dalla crudeltà per portarlo verso la compassione. And all that negative attitudes towards their opposite positive. E quindi per portare tutti questi atteggiamenti negativi, cioè allontanarci dai negativi e trasformarli in positivo. So this is what I mean anyway by the word Ed ethics. è questo ciò che io intendo con la parola etica. It affects all our lives, political, social, psychological. Influenza tutta la nostra vita, la vista politica, sociale, psicologica, eccetera. Whereas if you were to use the word morality, it tends to be about don't do this, do that, you know. Quando si parla invece di moralità è più del tipo non fare questo, fai quest'altro. Sì? Hai Va bene. risposto alla domanda? Sì. There might be a link between what some people call the law of affinity or of attraction. So similar things or beings or actions or events, etc., attract things similar to them, and the karma law. So the question is there a link between the law of attraction and karma? Italiano. Ah, scusate. Allora, c'è un collegamento tra ciò che alcune persone chiamano la legge dell'attrazione. Quindi simile attrae simile, è la legge del karma. Chi lo sa? I don't know enough about the law of affinity. Is that a social law? What's Non the conosco bene questa legge dell'affinità o dell'attrazione, è una legge sociale? Se la È persona che sociology? È che No. in sociologia? Che? No. Che? No, Fisica. è quantistica, fisica Ah, quantistica. quantistica, fisica quantistica. Quantum physics. Quantum physics. Aiyo. My knowledge of quantum physics is not worth writing on a piece of paper. La mia conoscenza della fisica quantistica non vale la pena neanche di scriverlo su un foglio di carta, è pochissimo. I mean, what we can say is obviously that like is attracted to like and opposites repel. I mean, Sì. this even within people. Questo, l'unica cosa che possiamo dire è che il simile attrae il simile e gli opposti si allontanano, non si, come si dice, respingono, grazie. E questo vale anche per le persone. Sì, but he's asking if it's the same as the law of karma. Yes, Yeah. the connect, The the law of link. no, the law of karma really relates to this business of ethics. No, in realtà la legge del karma si riferisce a, è più collegato con il concetto di etica. Effettivamente In fact, it's about ethics. riguarda l'etica. Ah. So you either create kusala karma, akusala karma, or kriya karma. So either you do wholesome action, unwholesome action, or functional action. Quindi sono tre tipi di azioni, kusala, akusala, cioè salutari o non salutari, oppure azioni funzionali, kriya. The kriya karma is the action of somebody who's fully liberated. Il kriya karma sono le azioni di una persona che è pienamente liberata. Yeah, because there's no self involved, we can't say it's wholesome or unwholesome, it's just right. Poiché non c'è un sé coinvolto, non possiamo dire che è giusto o sbagliato, anzi, non possiamo dire che è salutare o non salutare, è semplicemente giusto. Sì, così. Ok. Next. Sì, vabbè. What is the difference between finding someone attractive or sexy? What is the What difference? leads to suffering in this case? Quindi la differenza tra trovare una persona attraente o sexy? E la seconda domanda collegata, cos'è che porta alla sofferenza in questo caso? If you don't know by this age, Se non lo sapete alla vostra età. there's in the Buddhist teachings, there's three types of love. Negli insegnamenti del Buddha ci sono tre tipi di amore. There is the erotic physical love. C'è l'amore erotico, fisico. There's the love which is an attached love. C'è un amore con attaccamento. Ah, and this, of course, can be to the person whom you are erotically attracted to. Questo può essere ovviamente rivolto alla persona alla quale siete attratti eroticamente. Or it could be to your friends, to your family, to your children. Oppure potrebbe essere nei confronti della vostra famiglia, degli amici, dei vostri figli. E And there's metta, which is universal love. poi c'è il terzo tipo di amore che è metta, cioè l'amore universale. Which is that basic attitude of goodwill, whether the person likes you or not, or whether you like them or not. Che è un atteggiamento di base, di benevolenza, indipendentemente dal fatto che voi piacciate o meno l'altra persona o che l'altra persona vi piaccia o meno. No, the other one is the middle one is Pema, Pema, Pema. Raga, is it Raga? I think it is Raga. Yes, I think you're right. Raga's lust, no? Yeah, Raga. You have to be careful because erotic desires, there's nothing wrong with them. Bisogna stare attenti perché non c'è niente di male con i desideri erotici. No, it's part of our animal nature. Fa parte della nostra natura animale. What turns them into lust is the obsessiveness. Quello che li trasforma in desiderio Lust. sensoriale, lust è proprio tipo Lust. una lussuria, grazie. Ciò Lussuria. che lo trasforma in lussuria è l'ossessività, no? Nei confronti di questo amore. When we separate eroticism from affection, then we dehumanize the person. Quando separiamo l'erotismo dall'affetto, allora facciamo un'operazione di disumanizzazione della persona. Because we're using them in order to satisfy our own lust. Stiamo utilizzando la persona per soddisfare i nostri desideri. So at worst, that's pornography. E nella situazione peggiore, questo diventa pornografia. And affection, remember, has although affectionate love also has two parts. Però anche l'amore affettivo, diciamo, è composto da due parti. There is a true caring for the person. Quindi c'è un sincero atto di cura, di interesse per l'altra persona. Which is the metta part of it, you see. E questo un po' corrisponde alla metta. Mm. And the other part, of course, is an attachment. E l'altra parte però è un attaccamento. And again, the person becomes an object to satisfy you. E in questo caso, di nuovo, la persona diventa un oggetto per soddisfare te. Yeah. So even with parents and their children, they have ideas as to what they want their children to grow up into. Per esempio, anche alcuni genitori hanno delle loro idee su come cosa vorrebbero che i come vorrebbero che i figli diventassero. Ah, which is fine, except that they become attached to it. They become what's the word? You know what I mean? They be obsessive about it. Mm. Okay, non c'è nulla di male in questo, però poi diventano un po' ossessivi. Mm. So when the riguardo. Yeah, so when the child doesn't do what they want the child to do, then they get angry, disappointed, etc. Quando il figlio non fa quello che era nelle loro aspettative, allora se rimangono delusi o arrabbiati, eccetera. Sì. Yeah. Okay. Sì. What leads to suffering in this case? Well, what leads to suffering? It's the abuse of somebody. Quindi la domanda cos'è che porta a sofferenza in questi casi è l'abusare di un'altra persona. Yeah. Because when we do that within us, there will always be a sense of guilt and shame. You Perché see. Quando lo facciamo dentro di noi ci sarà sempre un senso di colpa e di vergogna. Even if we don't recognize it, it's there within the psyche. Anche se noi non lo riconosciamo, però è lì nella psiche. So one of the things that happens in our meditation is suddenly we have these guilts and shames come up which we hadn't recognized. E quello che succede in meditazione è che a volte vengono fuori questi sensi di colpa, questi stati di vergogna che non, di cui non ci eravamo resi conto. Mm, or at least we barely recognized them. Oppure l'avevamo appena riconosciuti. Mm. Sì, sì. Vorrei qualche consiglio su come affrontare i pensieri ossessivi, sia in meditazione che durante le altre attività della vita quotidiana. So how to deal with obsessive thoughts? Some advice. Yeah, well, the big thing is not to fight them, isn't it? Quindi la cosa importante è non combatterli, innanzitutto. You have to just receive them and very patiently acknowledge what they're doing, but refuse to behave, to obey them. L'unica cosa che si può fare è osservarli, riconoscerli, ma assolutamente non obbedire ad essi. Mm. I had a friend who went through a very a hard time. Avevo un amico che ha avuto un periodo difficile. And it manifested in his inability to make a decision. E questo si manifestava nella sua incapacità di prendere una decisione. For instance, I said to him, "Would you like a cup of tea?" Per esempio, io gli chiedevo, "Vuoi una tazza di tè?" He said, "Yes." E diceva sì. As I'm making the tea, he says, "Just a half cup." Allora, mentre stavo facendo il tè, mi diceva, beh, fammene solo mezza tazza. I said, a half cup. He said, yes. And then I'm making the tea. I'm continue making the tea. A fare il tè. And he says, no, I won't bother. E poi, alla fine diceva, no, lascia perdere. Yeah. Non so after once or two times of this, I said to him, whatever you say first, that's what I'm going to give you. Allora, dopo un po' di volte che è successo questo, gli ho detto, qualunque cosa tu dica per prima, io faccio quello. And he stopped. E lui l'ha smesso. Yeah, he just stopped, you see. So, yes, all you can do is, just like in your meditation, you keep coming back, you know. Quindi l'unica cosa che si può fare, così come nella meditazione, è pazientemente ritornare. Mm. And just be very careful of any negativity towards it. E bisogna stare molto attenti a qualunque forma di negatività nei confronti dei pensieri ossessivi. You have to feel that, you see, and then engender, develop a sense of compassion towards that part of your mind, that part of your heart which is diseased. Quindi bisogna più che altro contattare questa negatività, riconoscere questa negatività e poi cercare di sviluppare un senso di compassione verso quel tipo di mente, quella parte della vostra mente che è in un certo senso malata. Sì, così. Sì. Ok. Vabbè. Do you want some light? No, it's okay. Da quanto ho letto e capito, nel Nibbana non ci sarebbe coscienza, ma una coscienza sufficientemente purificata può farne esperienza. La domanda: se la coscienza è ciò che conosce, ciò che permette l'esperienza, come può esserci esperienza di qualcosa in Nibbana in cui non c'è coscienza? This is complicated. Okay. So, in Nibbana, from what I've heard and read, there's no consciousness. But a consciousness which is purified enough can have an experience of Nibbana. So the question is, if consciousness is that which knows, which allows an experience to be made, how can there be an experience of something like Nibbana in a state where there's no consciousness? Did you get this? No, this is the sort of confusion that comes out of Theravada Buddhism. Questo è il tipo di confusione che viene fuori nel buddismo Theravada. And it really is to do with this later teaching of the Abhidhamma. Perché in realtà ha a che vedere con questi insegnamenti successivi legati all'Abhidhamma. Where they use peculiar language to express the experience of Nibbana. Dove usano un linguaggio un po' peculiare, un po' strano, inusuale, per spiegare l'esperienza del Nibbana. Such as consciousness takes Nibbana as an object. Per esempio si dice la coscienza prende il Nibbana come oggetto. Ah. So from a language point of view it doesn't make any sense. Quindi da un punto di vista linguistico non ha alcun senso. Ah. So you have to go back to the actual discourses. Quindi occorre tornare ai discorsi del Buddha, quindi alle fonti. And what you find is that the Buddha uses words which have different meanings in different contexts. E scoprirete che il Buddha usa parole diverse. The same words. Le stesse parole che però hanno significati diversi a seconda del contesto. Ah. So per descrivere il Nibbana. Yeah, so in the victory verse that we chant in the morning, you see he uses chittang asankatang. Per esempio, nei versi di vittoria che recitiamo al mattino, lui usa questo che citta. Ha detto in pala, citta. Citta usually refers to the heart-mind combination, like soul. Quindi citta di solito si riferisce a questa combinazione di mente-corpo, come fosse l'anima. But here, by using the word visankatang, he's saying it's unconditioned. Ma qui, aggiungendo la parola visankatam, indica che non è condizionata. Which means there can be nothing phenomenal within that consciousness. E questo significa che all'interno di quella coscienza non ci può essere nulla di fenomenico. He uses the word vijnana to mean a discriminative consciousness. Poi one that thinks. Un'altra parola, sempre per esprimere coscienza, che è vijnana, e qui però è una coscienza discriminante. Did you say discriminative? Che discrimina tra le varie cose. But then again he uses the same word to describe a consciousness which has without anything in it. Ma poi uso un'altra parola, sempre per descrivere la coscienza che non ha nulla al suo interno. And is without boundary, so there's no phenomena. È senza limiti, quindi di nuovo non c'è nessun fenomeno. And full of light. Ed è piena di luce. So, the name of this consciousness? Vijnana. Scusa. The same parola, sì. Quindi la stessa parola vijnana, però in quest'altro contesto, sta a indicare questa coscienza illimitata e piena di luce. Sì. And that phrase that I've just spoken is the basis for the Mahayana understanding. E questa frase che ho appena detto, this of the basis for. Questa è la base dell'approccio, diciamo, del buddismo Mahayana. But this last phrase was what? Of the there is a consciousness without limits. Without limits. Sì, and, sì, sì. Yeah. Quindi questa definizione del Nirvana come una coscienza senza limiti, piena di luce, fa da base al buddismo Mahayana. In Theravada Buddhism, it stays close to the way the Buddha himself spoke about this experience. Quindi nel buddismo Theravada si tende a rimanere molto vicini al modo in cui il Buddha stesso ha parlato di questa esperienza. According to their scriptures. Ovviamente sulla base delle loro scritture. Which are not so original as people think. E non sono così originari. Così come possono pensare le persone. There are bits in the scriptures that you can see are quite ancient. They go back almost, perhaps, actually to the Buddha. Ci sono alcuni brani, alcuni pezzi delle scritture che si vede che sono molto antichi e che risalgono proprio alle parole del Buddha stesso. Yeah, the academics can tell from the language, you see. E gli studiosi riescono a capirlo dal tipo di lingua che viene usato. But it would seem that the Buddha talked about the experience, not what experience is this experience. Ma sembra che il Buddha abbia parlato dell'esperienza, ma non di ciò che fa questa esperienza. It's like you know, when you eat a pizza, you describe the experience of eating a pizza, you don't describe who's eating it. Come per esempio, se uno descrive l'esperienza del mangiare una pizza, uno descrive l'esperienza stessa, non descrive chi è che fa l'esperienza di mangiare la pizza o chi la sta mangiando. In Mahayana Buddhism, the shift, remember that Buddhism and Hinduism fenced with each other for 1500 years in India. Quindi per 1500 anni il buddismo e l'induismo hanno un po', come dire, erano un po' in conflitto in India. And combattuto. Yes, and so there were, they borrowed from each other, you see. E hanno preso delle cose a prestito, no? Gli uni dagli altri. So the movement in later Buddhism was to describe, well, what is it that knows Nibbana? E allora nel movimento successivo ci si è chiesto, ma allora che cos'è che fa l'esperienza del Nibbana? And that's when you get scriptures talking about Buddha nature. E lì si trovano delle scritture che parlano della natura del Buddha. The big self. Il grande sé. E così. There is no consciousness of anything in Nibbana. Non c'è nessuna coscienza di qualcosa nel Nibbana. But there is consciousness there. Ma lì c'è una coscienza. Ecco. Non c'è coscienza di qualche fenomeno, ma c'è una coscienza. Sì. È così. We'll just get there and then we'll see. Anche l'amore che provo per la mia fidanzata è il prodotto di un io illusorio e incontrollabile? Se sì, qual è il modo più saggio di convivere con questa consapevolezza? Continua dietro. Esiste uno spazio di amore con passione non dipendente dalle leggi di Anicca, Dukkha e Anatta? So, even the love that I feel for my girlfriend, so is the love that I feel for my girlfriend a product of a deluded self, an uncontrollable self? If this is the case, what's the best way or the wisest way to be with this awareness? And then it says, is there a space of love and compassion that does not depend on the laws of anicca, dukkha and anatta? Is there a what? Is there a space of love, he says. Love and compassion. It's not dependent on. Yeah. No, remember that in any relationship, there is a part of it which is a caring for the other, a true love for the other, a regard for the other. In qualsiasi relazione c'è una parte che comporta un vero atto di cura o di interesse o di rispetto per l'altro. And there's another part. Yes, and there's the other part where the person is there for your selfish need to feel happy. E poi c'è un'altra parte invece che ti fa pensare che quella persona è lì solo per soddisfare un tuo bisogno egoista di sentirti felice. So all you can do is to be aware when this attachment arises. Quindi l'unica cosa che si può fare è essere consapevoli di quando sorge questo tipo di attaccamento. So it's usually when anything negative comes. E quindi di solito è quando c'è qualcosa di negativo che arriva. When you're angry with a person, bored with the person. Quando sei arrabbiato con la persona o annoiato con quella persona. Anytime something negative comes up, you should reflect, you see. Ogni volta che sorge qualcosa di negativo, dovresti riflettere. In what way am I using this person to make me happy? In che modo sto usando questa persona per rendermi felice? And if you keep undermining that, then of course the love becomes purer and purer. Più uno, va a fondo di questa questione, più la si guarda, diciamo, e più l'amore si distrugge, più l'amore diventa puro. So long as there's a self, there'll always be attachment. Ma finché c'è un sé, ci sarà sempre l'attaccamento. Because it's the self that is so needy. Perché è proprio il sé che ha tutto questo bisogno, che è così bisognoso. Sì. But at least we can move towards a purer relationship based on a compassionate wisdom. Però possiamo andare sempre più verso una relazione pura basata su una saggezza compassionevole. Or a wise compassion. Oppure una compassione saggia. Ok. So is there a love that does not depend on anicca dukkhanatta? Yes, that is metta. Sì, quindi è metta l'amore che non dipende da anicca dukkhanatta. Sì, metta. Per quanto riguarda l'intenzione, è sufficiente esprimere l'intenzione di fare qualcosa perché questo rappresenti davvero l'intenzione o c'è qualcosa di più? So, is it enough to express an intention to do something for this to be a real intention, or is there something more? I don't really get the question. No, non capisco niente. Forse non ho tradotto bene, però non che ho capito bene. Usa. Cioè, è sufficiente esprimere l'intenzione di far qualcosa perché questo rappresenti davvero l'intenzione. Cioè esprimerlo verbalmente. Chi ha scritto questa domanda? Sì, la domanda l'ho posta io. Ah, ok. Volevo sapere se per vedere l'intenzione è sufficiente esprimere l'intenzione di fare. Cioè verbalmente, you mean, dire, no? Oppure se il ripetere intenzione di camminare, intenzione di mangiare, è un suggerimento per il futuro, la futura visibilità delle intenzioni. Non ho capito bene questa faccenda delle intenzioni, perché io, pur vedendola, avevo forse malinteso il suo suggerimento di esprimere l'intenzione. So the question is more on the fact of expressing the intention, like maybe labeling when you're intending to walk, intending to... Yeah. Well, the purpose of that is to make intention clear to ourselves. Quindi il fatto che tu la esprima ha la funzione di rendere più chiaro a te che è un'intenzione. Sì, often our behavior is automatic. Perché spesso il nostro comportamento è automatico. You just find your hand in the biscuit tin. Improvvisamente ti trovi la mano nella biscottiera. Sì, and if you stop and think, e poi ti fermi a pensare, dici, che ci fa lì? Sì. And that's because there's a moment of mindlessness. Questo perché c'è un attimo di distrazione, di assenza di consapevolezza. So you take the hand out and you say, intending to take the biscuit. Allora tiri fuori la mano e ti dici, intenzione di prendere un biscotto. Sì, così. The thing about knowing your intention is, of course, it gives you the freedom to say yes or no. Il fatto, l'importanza del conoscere le proprie intenzioni è perché vi dà la libertà di fare una cosa o piuttosto che un'altra, dire di sì o di no. Così. Ha risposto alla tua domanda? Va bene. Era questo? No. Sì. Sì. Okay. Qualunque attività... Saying You say intend to move because you know that you want to move. So you In italiano? Which car? In italiano. In italiano? No. Per qua. No, dicevo, se l'intenzione di muovere, quando uno dice intendo intenzione di muovere, vuol dire che io ho sentito l'intenzione di muovere e quindi la dichiaro, oppure siccome so che voglio muovere, allora è come do il comando prima. Intendo muovere. Mm. Dico, quale viene prima? Well, some intentions you feel as a real energy within you. Alcune intenzioni le puoi sentire come un'energia dentro di te. But the intention to open the door is just open the door. There's no big energy behind it. It's just more than just. So just saying intending to open the door is the intention. Ma per esempio, se hai l'intenzione di aprire la porta, beh, lì non è che ci sia una grande energia. Quindi già è solo riconoscerlo e dire intenzione di aprire la porta è l'intenzione. It's just making it conscious. È solo che così tu la rendi cosciente. Ma riconosci l'impulso. You recognize the impulse. Yes, if you can catch it. Sì, se riesci a coglierlo. Allora, qualunque attività volta a far sorgere consapevolezza si può dire spirituale? In tal modo, anche un certo tipo di arte di psicoterapia, in tal modo anche un certo tipo di arte o psicoterapia si può dire spirituale perché fa sorgere la consapevolezza. So, if anything that helps to develop mindfulness, can we say that this is something spiritual? And the second question is, if this is true, then is also art or psychotherapy, could they be considered spiritual if they go in that direction of developing mindfulness? One of the things about the mindfulness movement. Una delle cose riguardo a questo movimento di cosiddetto mindfulness. You know, mindfulness and stress reduction, mindfulness and... Sì, quindi questo mindfulness è riduzione dello stress, mindfulness è puntini puntini. Is that, for instance, it will use the technique of mindfulness to help somebody. Usa la tecnica della mindfulness per aiutare qualcuno. But it's separated from the ethical need, the ethics of the Buddha's teaching. Ma è separato, è sganciato dall'aspetto etico degli insegnamenti del Buddha. It's just another psychotherapeutic intervention, I think that's what they call it. È solo un altro tipo di intervento psicoterapeutico. So it would be very lucky if it helped the person to move spiritually. Quindi sarebbe una cosa buona, fortunata, sarebbe una bella fortuna se questo intervento aiuta una persona a andare nella direzione della spiritualità. But on the other hand, such is the power of that mindfulness, of right mindfulness, that indeed it might take somebody to the spiritual path. Però è molto forte questa questo intervento, diciamo, di mindfulness, questo lo sviluppo della mindfulness può essere così forte che effettivamente può indurre una persona poi a intraprendere una pratica spirituale. Especially if the person begins. Ecco, quando è retta consapevolezza, dice. Especially if the person sees the connection as to how they cause themselves suffering through reaction. Soprattutto se le persone riescono a vedere il collegamento di come loro stanno creando la loro stessa sofferenza attraverso il modo in cui reagiscono. This is understanding dukkha dukkha, you know, the second, the first noble truth. Perché questo gli permette di capire dukkha dukkha, cioè la seconda nobile verità. La prima nobile verità. So, anything's possible. Quindi qualunque cosa è possibile. I don't know about art. Do you want to say something about art? Spiritual truths must find expression. Spiritual tools, truths. Quindi per quanto riguarda l'arte, le verità spirituali devono trovare una loro forma di espressione. Mm. So it's expressed in our thoughts, in our speech and in our actions. E si esprime nei nostri pensieri, nostre parole, nostre azioni. And that part of it is philosophy, art, whatever. E lì ci potete mettere la filosofia, l'arte o qualunque cosa. Anything. So wherever you see any religious form, there's always architecture, there's always pictures, there's always music. Quindi quando, per quanto riguarda qualsiasi forma spirituale, c'è sempre arte, c'è architettura, c'è musica. Mm. It has to express itself. Perché deve esprimersi. Mm. The Buddha could not just sit there, you know, like a statue with a sign saying, you know, do not disturb, fully liberated. Mm. Il Buddha non poteva sedersi lì come una statua con un cartello che dice non disturbate, pienamente liberato. He has to get up. Deve alzarsi. The wisdom must express itself in compassion. It's just la saggezza deve esprimersi in compassione. Mm. So this is the eightfold path, you see. Questo è l'ottuplice sentiero. Buono. Ok. I need my glasses. So you use the word liberation. Is this instead of awakening, enlightenment? Why? Can you talk about the translation from the original Pali plus misunderstandings in the West regarding enlightenment? And then there's another question. Quindi usi la parola liberazione. Questa la usi al posto di risveglio o illuminazione? Perché? E puoi parlare della traduzione dalla lingua Pali originaria e anche dei vari fraintendimenti qui in Occidente riguardo l'illuminazione. This deserves a book. Qui ci vorrebbe un libro per rispondere a questa domanda. Remember there are two processes in our practice. Ricordate che ci sono due processi nella nostra pratica. There's a process of insight which leads to an awakening, an understanding. C'è il processo dell'insight che porta, che sono queste intuizioni profonde, che portano a un risveglio, a una comprensione. Ah, so this is Bodhi, Bodhidharma. E questo è, nella lingua Pali, è Bodhi, come Bodhidharma. And the other part is the purification of the heart. E l'altro aspetto invece è la purificazione del cuore. Mm. So this is Visuddhi. E questo è Visuddhi. Ah, so there's a big book, Visuddhi Magga. Mm. C'è un libro importante, Visuddhi Magga. Mm. The two must go in parallel. You can't make insight without purifying the heart. Mm. E le due cose sono parallele. Non si può raggiungere l'insight senza purificare il cuore. Because our ethics are a measure of our delusion. Perché la nostra etica ci dà la misura della nostra illusione. See, how we relate to the world is the measure of our delusion or lack of delusion. Come ci relazioniamo al mondo ci dà l'idea, ci dà la misura di quanto siamo illusi o non illusi. So somebody who is cheating and hurting people is manifesting their delusion. Le persone che sono ingannevoli o cheating, or did you say? Cheating. Come si dice cheating? No, I said cheating is the second. It doesn't matter. Okay. Quindi le persone disoneste, in poche parole, sono persone illuse. Illuse nel senso che vivono non nell'illusione, nell'ignoranza. So the difference between liberation, awakening, and enlightenment. Well, they're all the same. One side is the purification of the heart. The other side is the understanding of the way things truly are. Quindi queste tre parole più o meno si equivalgono. Da una parte c'è questa comprensione, e l'altra parte la purificazione del cuore. Okay. Right livelihood. Sometimes I worry that my job is not right livelihood. Busy, very stressful, by nature goal-oriented. Making a product for a client, essentially. Mm. And the corporation uses a consumeristic model where workers are commodities, expendable labor, commodities or expendable labor. It also encourages egoism, pride, and competitiveness in its workers, especially me. How do I make it right livelihood? Allora, una domanda sui retti mezzi di sussistenza, si traduce così di solito, modi di vivere, no? Questa persona dice mi preoccupo che il mio lavoro non rientri, no, in questa categoria dei retti mezzi di sussistenza, perché è molto stressante, sono molto indaffarata e per sua natura questo lavoro è mirato sempre al raggiungimento di un obiettivo. E anche la ditta per cui lavoro è basata a una filosofia consumista, un modello consumista dove praticamente i lavoratori sono sfruttati, sono considerati lavoro da sfruttare, manodopera da sfruttare, e incoraggia l'egoismo, l'orgoglio, la competizione rispetto ai suoi lavoratori. Quindi questo, come posso trasformarlo in un retto mezzo di sussistenza? The first thing is to be clear that the actual work done is wholesome. Allora, innanzitutto bisogna avere chiaro che il lavoro fatto è di per sé salutare. And the way that you exit from that consumerist capitalist approach. Mm-hmm. Yes. Il modo per uscire da questo approccio consumistico capitalistico is to see yourself giving service. È di vedersi come una persona che sta offrendo un servizio. That's it. So your job is a service. Quindi vedere il proprio lavoro come un servizio. Sì. And that you don't get into the idea of perfection. Quindi uno non entra in questa idea di perfezione. Which is always having some ideal that can never be reached. E questo presuppone sempre avere un ideale che non potrà mai essere raggiunto. Nor make the mistake of elitism. E neanche fare l'errore dell'elitismo. Where you're constantly comparing yourself to others. Dove costantemente vi paragonate ad altri. And you overcome this by simply putting your attention on excellence. E questo lo superate mettendo sempre la vostra attenzione sull'eccellenza. And what we mean by excellence is you are doing the best you can at this present moment. E per questo intendiamo fare il meglio che potete in questo preciso istante. And that's all you can do. Ed è tutto quello che potete fare. Let other people judge. Lasciate che siano gli altri a giudicare. Just opt out of that system. Quindi è uscire fuori da quel sistema. So you go into a workplace with the intention to offer a service. Quindi entrate in un posto di lavoro con l'intenzione di offrire un servizio. So you're not there just to take. Quindi non siete lì solo per prendere. And you know your work is wholesome, it's good. Sapete che il vostro lavoro è buono, è salutare. And you give your full attention and care to it. E date la vostra piena attenzione, la vostra cura a quel lavoro. Basta. Enough. Sì? Vero? Ecco. Also, whenever I return from a retreat, I have great intentions and determined to practice mindful and metta during the working day. I do a series of things, meditate daily, meet with the Sangha, and build a few mindfulness breaks. For example, when I touch a light switch or wait for the kettle to boil. But after a few weeks, my motivation seems to slip. I keep doing those things, but they don't come from the heart. They feel less meaningful. How do I bolster, inspire my motivation? Allora, quando finisce un ritiro, torna a casa tutta determinata a dedicare del tempo alla pratica nella sua vita quotidiana, e poi elenca una serie di cose che fa, però dice dopo un po' di settimane la sua motivazione comincia a diminuire, le cose le fa lo stesso, tipo meditare ogni giorno, oppure fare consapevolmente determinate cose o partecipare a delle riunioni di sangha. Però è come se non venissero più dal cuore e sembrano meno significative. Quindi chiede come fare a aumentare la sua motivazione. Yeah, two things here. Qui ci sono due cose. First of all, it's always good to have a weekly meeting or a day retreat every so often, or an afternoon retreat, just to put a little bit more heat in the fire. È importante avere degli appuntamenti regolari, o trovarsi con un gruppo ogni settimana, oppure fare un ritiro di un giorno, ogni tanto di un weekend, o anche solo di un pomeriggio. Questo per tenere vivo il fuoco, no? Per mettere un po' di legna nel fuoco. Mm. And you also have to go through moments. If you look at any spiritual literature, you have to go through the deserts. E ogni tanto però bisogna attraversare il deserto, e questo lo trovate in tanti testi così spirituali, religiosi. Mm. When I first began chanting with my teacher, it was very very beautiful, and I loved it, and it was joyful. Quando ho cominciato a recitare con il mio maestro mi piaceva tantissimo, c'era molta motivazione, c'era un senso di gioia. Mm. A companionship. C'era un senso di anche di essere come compagni di viaggio. Diciamo. Ah, we chant the same thing every morning. E recitavamo la stessa cosa tutte le mattine. So after a few weeks, it gets a bit boring, eh? E dopo un po' di settimane diventa un po' noioso. Iti piso bhagavara. But you keep going with good intention. Ma uno continua a recitare con delle buone intenzioni. Ah, and then suddenly you're just chanting. E poi improvvisamente stai semplicemente recitando. Ah, you're not expecting it to make you happy, and you're not expecting it to make you bored. Non ti aspetti né che ti renda felice né che sia noioso. Ah, so you just keep doing what you know is correct, and you'll see, you just go through the boredom, you see. Continua a fare quello che tu ritieni giusto e in qualche modo attraverserai questo deserto, questa fase di noia. Mm. Diciamo. Mm. Così. Sì, vabbè. Okay. Di cosa è fatta la paura? Quali sono i fattori mentali che la compongono? What is fear made up of? What are the mental factors? Mental factors of fear? Of fear, yes, that are part of it. Well, you can only use other words, really. Beh, si possono solo usare altre parole. Ah, you're afraid of. Hai paura di. I don't know. Mental factors of fear is an aversion. Altri fattori mentali che possono essere associati con la paura sono l'avversione. A feeling of being overwhelmed, overcome, destroyed. Una sensazione di essere sopraffatto, di essere distrutto. It's the opposite of aversion, isn't it? It's the opposite of hatred, where you're trying to get rid of something, annihilate your enemy. Quindi è il contrario dell'odio, dove tu stai cercando di eliminare il tuo nemico. So this is where you don't want to be annihilated. Qui invece sei nella posizione di non voler essere distrutto. So we just have that reaction of hiding, running, getting away. Semplicemente abbiamo questa reazione del nascondersi, dello scappare. Mm. Whereas anger makes you very hot, fear makes you very cold. Mentre la rabbia vi rende molto caldi, invece la paura vi rende freddi. Actually, anger makes you hot, hatred makes you cold, no? Anzi, la rabbia vi rende caldi, l'odio vi rende freddi. Mm. Anxiety makes you hot, fear makes you cold. L'ansia vi rende caldi, la paura vi rende freddi. No. È così? È così. And of course we feel it as nausea sometimes. A volte la percepiamo come un senso di nausea. Yeah. Or you have to go for a pee. Dovete andare a fare la pipì. Sì? Ah, quando avete paura, una reazione può essere quella di che vi scappa la pipì. Non yes. Vabbè, I don't... Va bene come risposta? Va bene, sì. La risposta, sì? Was the questioner asking, looking for something more? No, what is the question? Fear made up of? Yeah, what's the questioner? Chi ha fatto questa domanda è soddisfatto dalla risposta? Io. Ah, sì. È difficile. No, perché mi immaginavo che se ci sono tre modalità, avversione, desiderio e fuga, e la fuga nasce dalla paura, la paura deve avere un fondamento nella mente. E dove sta il fondamento della paura? Cioè, oh, I see. Cos'è? Qual è la causa prossima della paura? Ah, I understand. So yes. The question is the proximate cause of fear. What is it that causes the fear in the mind? It's the self. It fears its own destruction. È il sé che teme la propria distruzione. It feels threatened. Si sente minacciato. What is the self? It's what we refer to when we say me. Cos'è il sé? È ciò a cui ci riferiamo quando diciamo io. The person, the body. Il corpo, la persona. No? Però la fuga a volte è salutare. But sometimes running away is wise, it's helpful. It's wise. È saggio. Scappare. Well, there's nothing wrong with getting away from what is dangerous. Ma some of it is natural, isn't it? Non c'è nulla di male ad allontanarsi da ciò che è pericoloso. I personally have no doubt that if the Buddha walked into a room and switched on the light and found a snake in front of him, he'd jump. Io sono quasi sicuro, non avrei dubbi sul fatto che se Buddha entrasse in una stanza, accendesse la luce e vedesse davanti a sé un serpente, salterebbe. Sì, because it's part of the reptilian brain that we have. It's part of the function of our physical nature, isn't it? Perché fa parte di questo cervello rettile, si può dire? Rettiliano, scusate, ok. Perché è la funzione di questo nostro corpo. Maybe he won't, you know. Maybe he just notices that there is a snake. Può darsi di no, può darsi che avrebbe semplicemente notato che c'era un serpente. But perhaps he sees that little reaction and is able to be aware of it and let it pass away. But the reaction, to my mind, has to be there because it's just natural. Può darsi che invece veda questa piccola reazione e poi semplicemente aspetti che se ne vada. Però la reazione, secondo me, c'è sempre perché è naturale, fa parte della nostra natura. Questo è, this is my own understanding. Ma questo come la vedo io. Fear is ultimate truth. Is it? No, I don't think so, no. Like, eh? Materiality of mind. Oh, materiality. Is I don't mind, know. Is mind a factor? So is ultimate truth? Well, it's not, I don't think it's ultimate in the sense of, nirvana or anything. No, of course. It's just one of the truths. Yes. Yeah. Milani dice, è comunque una realtà ultima, la paura. Yes. Well, see, they talk, this is Abhidhamma. Siamo di nuovo nell'ambito dell'Abhidhamma. They talk about, oh dear, what's the word? Conventional truth and ultimate truth. Sì, perché nell'Abhidhamma si parla delle verità convenzionali e quelle ultime. And what they mean by ultimate truths are specific categories. Quello che a cui si riferiscono quando parlano di verità ultime sono delle specifiche categorie. So there's Nibbana. C'è il Nibbana. There's the body, the physicality. C'è il corpo, la fisicalità. And there's mind. E poi c'è la mente. And everything arises out of that. E tutto sorge da lì. Sì, that's the meaning. Sì. Vabbè, va bene. Bene. Sono andare avanti? Sono perplesso perché se la causa prossima della paura è la paura, è il sé che si difende. Teme la distruzione, e però è salutare, talvolta scappare, mi viene da dire per conseguenza che è salutare salvaguardare il sé. Ah. So he says he's a little perplexed yes. because he says if just a minute if the proximate cause of fear is the self that's kind of afraid of being annihilated yeah, yeah. But sometimes it's natural to have fear, then it would seem wholesome to yeah. defend the self in some situations to protect the self through fear? Well, the reason why we protect ourselves is so that we can live as long as we can to do the practice. Il motivo per cui a volte è saggio proteggere il nostro sé è per poter vivere il più lungo possibile per continuare a praticare. Yeah. Even as a monk, I'm allowed to defend myself. Anche come monaco io ho il permesso di difendermi. Okay. Please explain how to use social media wisely. Ah. This is a good question. In Italian. Per favore, spiegaci come usare i social media in modo saggio. Impossibile. I think. It's the usual problem of obsessiveness with it. È sempre il solito problema del diventare ossessivi. I think you just have to, you know, sit there in front of the desktop or the computer, and just ask yourself, you know, what am I doing this for? Credo che bisogna semplicemente sedersi lì davanti al computer e chiedersi perché lo sto facendo. Well, you know, what's motivating me to spend, you know, 4 hours on Facebook? Cos'è che mi sta motivando a passare 4 ore su Facebook? Yeah, well, again, you see. Does it really give me a sense of friendship? Mi dà veramente un senso di amicizia? Or is it a sort of plastic friendship? Oppure un'amicizia di plastica? If I spend all my time tweeting, you know, who am I communicating with? Se passo tutto il mio tempo a twittare, con chi sto comunicando? When a face comes up of the person I'm talking to, it's just a photograph. Quando viene fuori la faccia della persona a cui sto parlando, ma è solo una foto. Can I have a relationship with a photograph? Riesco ad avere una relazione con una foto? On the other hand, you can use the media wisely, can't you? Però d'altra parte si possono usare i media in maniera saggia. I mean, it's just amazing how much information is out there. È incredibile quanta informazione c'è là fuori. And you may actually meet with an occasional person with whom you have a very fruitful relationship. E si potrebbero effettivamente incontrare delle persone con cui poi si inizia una relazione che porta buoni frutti. In that sort of category, I occasionally Skype with groups. Occasionalmente ogni tanto uso Skype per comunicare con dei gruppi. Yeah, and that saves me a lot of traveling. E questo mi risparmia da dover viaggiare molto. But most of the people I'm talking to I've already met. I have some sort of relationship with. Però le persone con cui comunico io le ho già conosciute, quindi ho una certa forma di relazione. But even if I hadn't, at least it would be a way of teaching Dharma, a practice. Però anche se non ce l'avessi, comunque è un modo per insegnare il Dharma. Mm. So as always, it always comes down to your intention. Quindi come tutto, alla fine si riduce alla intenzione, sì? La propria intenzione. People keep telling me I ought to be on Facebook. le persone continuano a dirmi di andare su Facebook, cioè di mettermi su Facebook. I made a mistake of putting my, I wanted to see somebody, I made a mistake of joining LinkedIn. You know LinkedIn? Ho fatto questo errore di unirmi, di far parte di questo LinkedIn. So all LinkedIn. These aliens are trying to get in contact with me. Adesso ci sono tutti questi sconosciuti che cercano di entrare in contatto con me. Some of them are from outer space. Alcuni sono proprio degli alieni che arrivano dallo spazio. So it's just yes, it's they. I don't know. Perhaps there is a psychologist amongst us, but I think you can only have 12 up to about 12 close friends. Forse qualche psicologo questo lo sa, ma pare che non si possono mai avere più di 12 amici. Cioè dimostrato che non si possono avere più di 12 amici vicini. Sì, sì, intimate. It's about 10 to 12. Da 10 a 12, confermate. Sì. No. I read this somewhere. L'ho letto da qualche parte, I read it too. Yeah. And if you think about it... I read less than that. Even less than that, yeah, you see. Even less. Io ho letto 6 addirittura. Yeah. Which doesn't mean you can't have... more superficial relationships with people, it's just knowing that they're superficial. Questo non vuol dire che uno non possa avere tante relazioni superficiali, però uno deve sapere che sono superficiali. Sì. Okay. How many more pages? Let's look at this half past 8. 3 pages. Oh, my goodness. It's going to be on. I think we have to stop sometime. So it's 8:30 already, yeah? chiedo Massimo poi di aiutarmi. Faccio ancora questo, poi ti chiedo di sostituirmi che ho un mal di testa. Sì. Massimo, I'll substitute. This is well, the last. What I was going to suggest is that should we only go for another 15 minutes? Because it's just too much. C'è ancora un quarto d'ora, va bene. And then the questions I haven't answered, if they are important to you, then send me an email. Speaking of media, using social media wisely. Yes, using social media wisely. E se ce ne sono alcune che avete scritto che ritenete molto importanti, potete scrivergli un'email e vi risponderà personalmente. Yeah. And I think my Italian is just about good enough to make sense of Google Translate. Il mio italiano è abbastanza buono da poter utilizzare il Google Translate, quindi se scrivete in italiano dovrebbe essere in grado di capire. Sì. Allora, la prossima domanda è sul Paticca Samuppada. I still haven't understood where the escape from dukkha is. Is it between Vedana and Tanha or between Tanha and Upadana? Ah, okay. The escape is between. Let me just translate. Quindi non ha capito bene nel Paticca Samuppada, nell'originazione interdipendente, dov'è che si può tagliare praticamente, spezzare la catena e uscire dalla sofferenza. Se è tra i due anelli di Vedana e Tanha oppure Tanha e Upadana. Sapete tutti cosa vogliono dire? Sì. Sì. Ah no, ok, oppure, ok, Vedana sono le sensazioni piacevoli, spiacevoli, neutre. E Tanha è la brama, la sete. E Upadana invece è l'attaccamento, il voler afferrare qualcosa. It's the identity. È l'identità. Identità. È l'identificazione. Sì, sì. So quindi è tra, sorry, just quindi l'anello da spezzare è tra Vedana, quindi la sensazione, e Tanha, la Brahma, oppure tra Tanha, Brahma e identificazione? Sì. Okay. So Vedana will always arise. It even arises in the Buddha. Quindi Vedana sorgerà sempre, sorge anche nel Buddha. He knows there are pleasant feelings, both mental and physical. Quindi lui conosce delle sensazioni piacevoli, sia mentali che fisiche. And he knows there are unpleasant feelings, both physical and mental. E sa che ci sono delle sensazioni spiacevoli, sia fisiche che mentali. The tanha is a reaction to what we are feeling. Tanha è una reazione a ciò che stiamo provando. So either we want to attach to, acquire, make something bigger, which is pleasant. Quindi o vogliamo attaccarci a qualcosa di piacevole, oppure ingigantirla, farla più grande, trattenerla. Mm. So this is the first sign of delusion. E questo è il primo segno dell'illusione. Mm. The next one is identifying with what you want. Il secondo passaggio, diciamo, è l'identificarsi con ciò che si vuole. Mm. So remember, ice cream, like, want, I, get. Allora, ricordate l'ordine, la sintassi, no? Quindi il gelato, mi piace, io. No, no, voglio. Ma scusate, voglio, io ottengo. Prendo, io sì. Prendo. Sì? So questo è l'ordine della, no? Della yeah. Nostra mente. The moment of identification is extremely quick. Quindi il momento, l'attimo in cui ci identifichiamo è estremamente veloce. And if you're really really aware, you can sometimes catch it. E se siete veramente consapevoli, a volte riuscirete a coglierlo. You may experience it as a sucking into something. E potreste fare un'esperienza come di essere risucchiati dentro qualcosa. Mm. So trying to escape there is not feasible. E quindi non è quasi possibile scappare dalla sofferenza a quel punto, in quel punto. It's much easier to put your attention between the arising of the pleasant, unpleasant sensation and the reaction. È molto più facile mettere l'attenzione su il sorgere della sensazione piacevole e spiacevole e la reazione. Mm. And then it's impossible for identity to arise. E allora a questo punto è impossibile che sorga l'identità, l'identificazione. And that reaction, as it dies out, is exhausting the habit, the unwholesome habit. E questa reazione, man mano che diminuisce, è come se indebolisse questa abitudine non salutare. È così. Sì? Sì? Ok. What reinforces the false belief of being an I? Is it like and dislike, wanting, not wanting? Sorry, I just need a drink of water. Sure, sure, sure. Would you like some? No. Oh. I'm all right, thanks. Ah, in italiano. Cos'è che rinforza la falsa credenza dell'essere un io? E questo mi piace o non mi piace? O il voglio non voglio. What continuously reinforces the self is becoming the self. Quello che continuamente rinforza il sé è il fatto di divenire un sé. Mm. Every time you create the I, you reinforce the I. Ogni volta che ricreate l'io, rinforzate l'io. Remember that the sense of I will be right there to the very end. Questo senso del sé o dell'io sarà lì fino alla fine. But what we're doing is training the I to be much more beautiful. Quello che stiamo facendo è stiamo addestrando, diciamo, l'io a essere sempre più bello. Yeah. So as we progress through the spiritual, as we progress along the spiritual path, we're becoming much more ethically beautiful. E man mano che procediamo nel nostro sentiero spirituale, noi stiamo diventando sempre più eticamente belli. Mm. But the sense of I am good will be there to the very end. Ma questo senso del io sono buono o bello, quello che è, rimarrà con noi fino alla fine. Sì, così. Ok? Yeah, is that, I don't know the question. Is that, yeah? Si è influenzati dallo stato di coscienza, allora, domanda, si è influenzati dallo stato di coscienza di chi medita insieme a te? Se sì, con la pratica è possibile capire, riconoscere queste influenze positive o negative che siano? So he says, are we affected by the state of consciousness of the person who is meditating with you? And if this is the case, with practice, is it possible to understand and to recognize these positive or negative influences that the person has on you? I think that's true for any relationship, isn't it? Questo è vero per qualsiasi relazione. Yeah, I mean, when you're with, if you're in a good mood and you're with somebody who's depressed, it affects you, doesn't it? Se voi siete di buon umore ma state con una persona che è depressa, questa vi influenza. No. Or if you're in a good mood and somebody's angry, you can feel it, can't you? It affects you. Oppure se siete di buon umore, siete con una persona che è arrabbiato, lo sentite, no? Questo vi influenza. Mm. And the opposite, if you're with somebody who is calm and peaceful and you're agitated, it affects you. E al contrario, se c'è una persona calma e tranquilla e voi siete agitati, beh, questo ha un effetto su di voi. Mm. Ah. No? when somebody is very highly spiritually developed, they often have a rather an obvious charisma. Quando le persone sono molto sviluppate spiritualmente, hanno come un carisma, si dice in italiano, sono carismatici, no? You have to be careful because just because somebody's charismatic doesn't mean they're wise. Però attenzione, perché non è detto che solo perché una persona è carismatica sia anche saggia. Well, for instance, where in the if you were in the presence of the Mahasi Sayadaw, you were very much aware of silence, or at least I was. Anyway. Mm. Per esempio, la presenza di Mahasi Sayadaw, una persona era molto consapevole del senso del silenzio. Mm. Perlomeno per Bhante è successo così. Mm. Not peace, eh? Non la pace. No, silence. Il silenzio. And it affected you. Your mind tended not to be so busy. E questo ti aveva un effetto sulla mente che deve non essere così occupata. So yes, well, yeah, we do affect each other for sure. Sì, sicuramente ci influenziamo l'un l'altro. Sì. In fact, that's why when Ananda says to the Buddha, good companionship is half the spiritual life. Quando Ananda dice al Buddha, dei buoni compagni spirituali sono la metà della vita spirituale, cioè la metà vuol dire, avete capito? Una metà, half the spiritual life. Metà della vita spirituale dipende da avere dei buoni compagni spirituali, mettiamola così. The Buddha said, oh no Ananda, it's all the spiritual life. E il Buddha l'ha corretto dicendo no, avere dei buoni compagni spirituali è tutta la vita spirituale. Yeah. Every time Ananda spoke, the Buddha always said, oh no, Ananda. Povero Ananda, tutte le volte che apriva la bocca, sì. Il Buddha gli diceva, oh no, Ananda, sbagliato. Sì. Allora, can we agree this is the ultimo? Questa è l'ultima? Sì. And then we can take a 15-minute break and then just sit a little while, 9 o'clock. Eh? Okay. So here, there's saying the quoting some words of the Buddha, but I'm not so sure they're right because it says in the scene, S-E-E-N, there should be only the scene, S-E-N-N, or is it seeing? In the seeing, there's only the seeing. Seeing, that's what I thought. Sì, vabbè, c'è un errore nella citazione del Buddha che nel vedere dovrebbe esserci solo il vedere. Puoi spiegarci queste famose parole del Buddha? Ah, this goes back to the story of Bahia of the bark cloth. Ah, questo si riferisce all'episodio, alla storia di Bahia e lo strofinaccio, possiamo chiamarlo, the bath cloth. Bark of a tree, the bark tree, beaten bark. Sì, yeah. Is that That's what he wore, yeah. Sì, allora Bahia che indossava questi abiti fatti con la corteccia degli alberi. Mm. It seems he'd been a rich merchant. Allora, Bahia era un mercante ricco. And then gave everything up to be a very committed ascetic. E poi ha rinunciato a tutto per diventare un asceta molto convinto. And he only wore bark, he didn't wear cloth. E non indossava abiti, indossava appunto le cortecce degli alberi. Which you can do in the tropics, eh? E forse questo lo potete fare nei tropici. And he'd heard about the Buddha, so he went to see him. E aveva sentito parlare del Buddha, quindi andò a trovarlo. And he approached the Buddha and asked him to give him some teachings. E si avvicinò al Buddha e gli chiese di dargli degli insegnamenti. And the Buddha said to him, "This isn't the right time. I'm on my arms round." E il Buddha disse, "Questo non è il momento giusto. Io sto facendo il giro per la questua." And Bahia said, "I'm a very old man. I could die any moment. Please give me your teachings." E Bahia gli disse, "Io sono un uomo molto vecchio, potrei morire da un momento all'altro. Ti prego di darmi i tuoi insegnamenti." So the Buddha said, "In the seeing there's only the seeing." E allora il Buddha rispose con queste parole: "Nel vedere c'è solo il vedere." "In the hearing there's only the hearing." Nell'udire c'è solo l'udire. "And in the cognizing there's only the cognizing." E nel conoscere c'è solo il conoscere. Cognizing è più l'atto cognitivo. Avere cognizione. Cognize è conoscere, nel senso di avere è l'atto cognitivo. Nell'atto cognitivo c'è solo l'atto cognitivo. Right there and then Bahia was fully liberated. Proprio lì, in quell'istante, Bahia fu pienamente illuminato. The Buddha gave titles to his chief to chief disciples and il Buddha dava dei titoli, diciamo, ai suoi principali discepoli. So for instance, he called Sariputta the general of the Dhamma. Sariputta era conosciuto come il generale del Dhamma. And he called Bahia the quickest to enlightenment. E Bahia fu nominato quello che è il più veloce a raggiungere l'illuminazione. As it happened, not that very afternoon, or sometime very close, a cow gored him to death. Ecco, e poi è successo che proprio quel pomeriggio, poco dopo aver ricevuto questi insegnamenti, una mucca Gordon. Sì, l'ha incornato. A morte. So he's very lucky. He's very lucky, Quindi è stato molto fortunato. Fortunato ad aver raggiungere l'illuminazione poco prima della sua morte. So all the Buddha is saying to him is that the idea of somebody seeing is false. Quindi tutto quello che gli ha detto il Buddha è che questa idea di qualcuno che vede è falso. Somebody who's hearing, somebody is hearing. That's false. Qualcuno, una persona che ode, questo è falso. Yeah. So when you are sitting in meditation, quando sei seduto in meditazione, and you hear the song of a bird, senti il canto di un uccello, see? You may think I hear the bird. Potreste pensare io sento l'uccello. But this is a reflection. Ma questo è un riflesso. As the bird's sound hits your ear, there is only hearing. Ma quando il suono dell'uccello colpisce il vostro orecchio, c'è solo l'udire. It's only the thought consciousness is after that says, "Oh, I'm hearing it." È solo il processo del pensiero che segue questo fenomeno che vi fa dire "Io sento." That process isn't necessary. Ma quel processo non è necessario. And so. Tutto qui. And so in release, in suddenly understanding that the self was a wrong concept, as a direct, he suddenly realized it, you see. And this liberated the Satipanya. E quindi praticamente si è reso conto in quel momento, liberated. No, the very beginning, I'm getting lost. Yeah, sorry. So he realized right there and then that it was only a concept. Si è liberato di questo, ha visto che questa idea dell'io era solo un concetto. E quindi in quell'istante Bahia ha liberato il Satipanya, cioè questa consapevolezza unita alla visione, diciamo. Remember la chiara visione. Yes, remember that when you are very clearly the observer, see, bring to mind that image of looking into a mirror. Quindi quando avete questa chiara percezione di essere l'osservatore, ricordatevi l'immagine del guardarvi in uno specchio. Ah, sì. Now, if the mirror is taken away, there's still Satipanya. Quindi se vi portano via lo specchio, c'è ancora Satipanya. Ah. But Satipanya doesn't know it. Ma Satipanya non lo sa. Ah, because it doesn't need to. Perché non ne ha bisogno. It doesn't need to know itself. Non ha bisogno di conoscere se stesso. No. Because every time it knows itself, it's always an image. It's not real. Perché ogni volta che conosce se stesso è sempre un'immagine, non è reale. Ah. And with this confusion, let's just draw our questions and answers to an end. E con questa confusione riportiamo le nostre questa sessione di domande e risposte ad una conclusione. Sì. Grazie. Grazie a te. Tomorrow morning